Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un benvenuto da Maurizio Melis. C'è un detto che circola tra i marinai del nord Europa. Dice più o meno così: i marinai del mare del nord sono tutti buoni perché quelli cattivi sono morti. Vabbè, i marinai si sa tendono un po' a esagerare, ma qualche elemento di verità c'è. Chiunque abbia un po' di esperienza del mare del nord può intuire facilmente di cosa si tratta. Il mare del nord è decisamente più burrascoso del Mediterraneo, ha fondali spesso difficili e soprattutto è caratterizzato da maree imponenti. Nei punti più critici, tra la bassa e l'alta marea, possono esserci anche più di 10 metri di differenza nel livello del mare. In ogni caso, maree di qualche metro sono del tutto normali. Variazioni così significative del livello del mare comportano ovviamente anche grandi spostamenti d'acqua e quindi, soprattutto in corrispondenza degli stretti, forti correnti marine. Ebbene, da queste correnti è possibile ottenere energia elettrica, più o meno come si fa con il vento. Ne parliamo con Alessandro Crise, direttore dell'Istituto di Oceanografia dell'OGS, l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale. Buonasera, Crise. Buonasera a voi, sono qui. Eccoci qua. Allora, Crise, iniziamo da appunto dalle tecnologie, come sono fatti, quali sono le architetture dominanti, se così possiamo dire, per quanto riguarda i generatori di energia da correnti marine. Ecco, è una bella domanda. In realtà, siccome questo è un settore in sviluppo, non esiste un'unica tecnologia dominante. Diciamo che possiamo caratterizzare il tipo di impianti in tre grandi categorie: quelli che sono la fotocopia marina degli impianti eolici, che sono basati su turbine a pale semplicemente messe all'interno della corrente; altri che invece sfruttano le variazioni di livello marino dovute alla marea, e questa differenza, diciamo, di altezza può essere trasformata poi in un secondo momento in corrente; e il terzo, forse più innovativo ma più con maggiore impatto, è la creazione di barriere di grandi dimensioni lungo la costa, barriere aperte ai lati che sfruttano la differenza di fase nelle maree e che possono creare anche in zone con bassa corrente importanti dislivelli. Questi dislivelli a loro volta generano in quest'area limitate vicino costa correnti che sono potrebbero essere sfruttate operativamente. Quindi parliamo di grandi muri, per così dire, messi in acqua lunghi qualche chilometro? Decine di chilometri, almeno si pensa di fare questo. Credo al momento che ci siano solo delle ipotesi o dei casi studio, ma le energie e i dislivelli in gioco ottenibili con questi sistemi sarebbero estremamente importanti. Va da sé che l'impatto ambientale è molto elevato, notevole. Certo. Ecco, senta, diceva che in questo caso, per quanto riguarda quest'ultima tipologia, siamo di fronte addirittura non a dei prototipi, ma fondamentalmente a dei concept, per così dire. Invece, in generale, ecco come siamo messi, a che punto sono? Sì, ecco, è una bella domanda. In realtà questa idea di estrarre l'energia dal mare non è nuova, si va abbastanza indietro. Durante la famosa crisi energetica degli anni 60 ci sono stati già i primi tentativi. Ecco, c'è una quantità di iniziative o di tentativi che poi non sono mai riusciti a decollare oltre la fase di prototipale, però adesso, dopo gli anni 2000, abbiamo alcuni impianti basati sui sistemi più semplici, quindi alle turbine assiali, cioè come quelle dell'eolico, che cominciano a entrare in produzione. In particolare la più avanzata è quella del SeaGen, che è una turbina assiale che è stata installata nel nord Irlanda e che come elemento singolo e che riesce a produrre qualcosa come 150 kW con potenze di picco fino al 1.2 megawatt. Quindi non siamo a grandissime potenze, ma cominciamo a avere delle capacità di produzione di energia elettrica abbastanza significative. Senta, qual è la difficoltà? Come mai ci è voluto tanto tempo? La corrosione? Quali sono le problematiche che si incontrano a mettere un oggetto nel mare? Abbiamo una quantità di problemi che è notevole. Il lato positivo è che la potenza estraibile dal mare è legata alla densità, quindi rispetto all'aria l'acqua è molto più densa, quindi certo, siamo avvantaggiati, e al cumulo della velocità. Quindi noi abbiamo la necessità di avere un sistema che riesca, uno, a resistere allo sforzo che viene impartito sulla struttura da una massa d'acqua, quindi molto pesante rispetto, certo, all'aria, che si muove velocemente, altrimenti c'è poco interesse. Dall'altro, quest'acqua è salata, quindi ci sono processi di corrosione, e poi abbiamo il problema del moto ondoso. Poi ci sono le cozze che si attaccano dappertutto, insomma non è, certo, non è affatto facile. Senta, abbiamo detto per esempio nel Mare del Nord ci sono molti luoghi in cui ci sono correnti forti, come va nel Mediterraneo? Beh, il Mediterraneo, il massimo mareale che si può riscontrare è a Trieste, e questo può sfiorare il massimo un metro circa di variazioni, quindi abbastanza poco rispetto ai 10 di cui parlava lei, tipici dei mari del nord, insomma. E quindi siamo un po' sfortunati. Abbiamo alcuni siti però interessanti, quello più noto è lo stretto di Messina. In realtà, e questo è stato poco esplorato, gli stretti tra isole, penso la Corsica e la Sardegna, così, potrebbero avere dei siti in cui localmente si generino correnti che potrebbero essere interessanti dal punto di vista commerciale. Va bene, grazie Crise. Niente, a lei. Bene, Mr. Kilowatt si chiude qui, torneremo domani per cercare di capire quanta energia si può ricavare dai muscoli degli esseri umani. Parliamo di pedalare, può sembrare una domanda bizzarra, ma non se la trasferiamo dentro a una delle tante palestre italiane. A domani.